possiamo vivere senza finanziamenti. 30.000 per Onda Rossa, dai sostieni Ror, dai sostieni Ror. Radio Onda Rossa, libera la tua radio. Perché da oggi in edicola c'è Stalin e Cozze, la prima rivista interamente dedicata a chi come te adora sapere tutto sulle cozze ma è appassionato di Stalin. Su Stalin e Cozze di questa settimana, mitili o peoci, i molluschi... Non ce la fai più con queste pubblicità di Stalin e Cozze? Sovverti le pubblicità e sostituiscile con il tuo abbinamento preferito. Giovedì 12 marzo, ore 17, al The Hollis Underground, via dell'Hollis, San Lorenzo. Armati di frullino e saldatrice, costruiamo delle chiavi per aprire gli stalli pubblicitari e sovvertire lo spazio con i contenuti che più ci piacciono. A seguire aperitivo, karaoke e musica trash. Giovedì 12 marzo, ore 17, al The Hollis Underground, via The Hollis a San Lorenzo. E 07, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. È il turno di prove tecniche di trasmissione da adesso sino alle 22.30 circa. Ricordo che questa sera 25 o'clock non andrà in onda. www.ondarossa.info per il nostro streaming e lo 0649 1750, contatto telefonico. Un saluto a Maya e Nicola Locci, alias Stigmate dalla Sardegna, Like Awake qui a Roma come il medico della peste, Lupsi con Lucia Cagliazza a Udine, Antonio Zovet alias Omicidio da Firenze. Marco qui a Roma come Daniele L della Hellbound Record. In quel di Milano Isa Etual e Riccardo Bonati di Ascension. Torniamo al sud, a Bari con Giovanni Lisi di Cordis Cinti Serpente e Raffaele Pezzella della Nespresso Sounds e Sonologist da Napoli. Ricordo velocemente il radio abbonamento e molti di voi già hanno aderito. Si va sul sito, si clicca sul banner e si sceglie la modalità più adatta, elettronica o meno. 30 euro per 1000 aderenti, per 1000 adesioni, è una base minima per mandare avanti in maniera autogestita questa radio da sempre senza pubblicità, dal lontano 1977. Un saluto anche ad Enrico Cerrato di Petrolio ad Asti. Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta. E noi andiamo ad iniziare proprio dalla Sardegna con Simon Ballestrazzi, vecchia conoscenza della scena sperimentale delle avanguardie proprio qui italiane. Questa sera terminiamo il giro per conoscere il suo Redshift, uno dei suoi ultimi lavori uscito sul finire proprio del 2019, un album che esce per la Azot su etichetta personale. Disco dal minimalismo glaciale e dai rumori sinistri 5 tracce che portano sempre il nome Redshift, 5 movimenti, anzi 4 per la precisione, mentre l'ultimo si chiama Blues Shift, la quinta traccia. Noi invece ci ascoltiamo Redshift parte 3 e parte 4. Shift di Simon Balestrazzi, il terzo e quarto movimento, un album che ci ha tenuto compagnia in queste ultime tre settimane, e a ragione vengono citati personaggi che hanno nobilitato questo tipo di scene, a partire da naturalmente Luigi Russolo, il maestro di tutti, poi Stockhausen, Pierre Henry, anche questo lo abbiamo sentito tanto tempo fa qui a Prove Tecniche di trasmissione, fino ad arrivare a Luigi Nono, Bruno Maderna. Insomma, il nostro Simon Balestrazzi si pone nel solco di queste eminenze grigie. Interessante la sua etichetta, dunque, la Azot, come è interessante naturalmente il profilo Bandcamp, che consiglio di visitare per darsi un po' una regolata su tutte le varie opere uscite sotto questa ragione sociale. Salutiamo Eloquence Recycle di H501L, che sentiamo ormai da molti molti lunedì in sede di Disorder. Ricordiamo i suoi trascorsi all'inizio degli anni Ottanta con tomografia assiale computerizzata. E poi, giusto per ricordare, già che chi sta ascoltando magari già lo sa, ma comunque anche con, e più recentemente con Daimon, con Dream on Whipple Ritual, con Candor Chasma, Hidden Reverse, anche con i Killian Camera per un brevissimo periodo e tantissime collaborazioni. Si cambia un po' registro, si cambia il concetto del suono e del rumore e si va verso i campionamenti soprattutto della Seconda Guerra Mondiale, quindi questo discorso ci porta fatalmente all'ultimo lavoro di Rome, di Jérôme Reuter. Si chiama Kafferzeit, un interessantissimo assemblaggio appunto di rumori che danno lo spunto per delle considerazioni e riflessioni sulla guerra come metodo di risoluzione ideologica. Queste sono le riflessioni che fa Jérôme Reuter. Affermazioni che per molti aspetti possono anche essere traslate ai giorni nostri. Kafferzeit è uscito nel 2019, naturalmente in edizione limitata, e questa sera ci ascoltiamo Freiwilligen, Vormarsch e Der Corsar. Seite an Seite bilden sie die unüberwindliche Front. Möge diese Verdicht und Pflichtbewusstsein auf die Heimat befehlen. Steht man in den Reihen der Freiwilligen, die den verschiedensten Völkern Europas angehören, dann gewinnt man den Eindruck, dass das neue Europa hier geboren wird. Interessante il concept di questo lavoro, di questo Kafferzeit del 2019, non è nuovo nel diciamo l'argomento affrontato naturalmente da Jérôme Reuter, ricordo proveniente dal Lussemburgo, che di tanto in tanto alterna i suoi lavori di stanza neofolk e dark wave con questi più di origine industriale e martial e neosinfonico. E tanti sono i lavori da menzionare per quanto riguarda la validità. Ricordiamo anche Flowers from Exile, un album dedicato a suo nonno, suo nonno che combatté il franchismo, al pari di sua nonna che combatté invece il fascismo. E quindi questo Flowers from Exile, i fiori dall'esilio, sullo sfondo di questa storia, diciamo, d'amore, c'è chiaramente la situazione storica di quegli anni. Dunque, lasciamo Rome e Jérôme Reuter. Che vedo ha messo d'accordo praticamente tutti quelli che mi stanno ascoltando fino ad ora. Qui sugli 87 di e 9 di Radio Onda Rossa e www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di ascoltare il nostro streaming. Parlavo di Simon Balestrazzi che ci ha tenuto compagnia, come ci ha tenuto compagnia per molte molte puntate Michael Bonaventure, sfruttando la sua splendida opera, la sua ultima, dal nome In Tenebris, Razione Organi, che esce attraverso Light Tower Records, etichetta molto molto interessante del nostro Raffaele Pezzella, al pari della Nespresso Sounds, ormai conosciutissima da queste parti. E quindi di Michael Bonaventure mancava fondamentalmente un solo brano, questo Giant Gold. un dedalo di suggestioni vertiginose, devo dire, questo ultimo lavoro di Michael Bonaventure, musicista scozzese di Edimburgo, si chiama In Tenebris, Razione Organi, un artista conosciuto grazie al genio di Raffaele Pezzella, la sua cultura musicale, attraverso le sue varie compilation, sia attraverso Late Tower Records e sia attraverso la Nespresso Sounds label. La Nespresso Sounds è anche gruppo Facebook per appassionati di musica, consigliato caldamente. E sono tante le produzioni in queste due etichette, ma Michael Bonaventure è forse tra quelli che ha una leggera marcia in più. Chiaramente un'opinione molto di parte. Per cui mi riprometterò, bene o male, di cercare di reperire più materiale possibile per questo grandissimo artista, per proporlo anche attraverso queste frequenze e in questo programma. Sentite che fendenti. Nasce come maestro di organo, come organista, applicato naturalmente all'elettronica. I riferimenti alla stagione del krautrock mi sembrano abbastanza evidenti, ma qui c'è decisamente una marcia in più, con un contenuto di visionarietà al di fuori del comune. Torniamo in Italia dal nostro amico Rodrigo Passannanti con il suo progetto Hypercube, questa volta in combutta insieme a Nuan, un'altra misteriosa entità italiana. Entrambi ci donano questo Global Oxide, dal quale estraiamo Toxic Rituals Biophonic Mass. Thank you. ancora Hypercube e Nuane in questo Global Oxide. Rodrigo Passannanti, molto molto ispirato, insieme a Nuan e naturalmente Hypercube, in questo Global Oxide, uscito sul fine del 2019, un ottimo lavoro. Leggendo e parlando qui con il buon Nicola Locci, mi sono venuto in mente effettivamente, oltre che la Warp, anche la Reflex, che raramente cito, ma è che è stata una realtà molto molto interessante. Ricordiamo lavori di Square Pusher, in piccola parte Aphex Twin, che ha preferito naturalmente la Warp come metodo di diffusione, e nella Reflex c'erano, credo, gli stessi Astrobotnia, che era un progetto finlandese se non sbaglio, tutti nomi che si perdevano in queste spericolatissime strutture armoniche così veloci, queste scale ritmiche audacissime, Brilliant Bass come veniva anche chiamato da alcuni. Hypercube si pone su questa matrice, come lo stesso Nicola Locci con il suo progetto Hexagonal, lo ricordiamo. Ancora Italia, Le cose bianche di Giovanni Mori, e cambiamo registro. Ci sono le declamazioni, la poetica di Giovanni Mori su un tappeto armonico tra industrial ma passaggi quasi tecnoidi in questo ultimo suo lavoro. Tutto il corpo è digitale. Album pieno di tensione interiore. Cosa che possiamo apprezzare anche questa sera attraverso le tre tracce che ho scelto, ossia Vaghe stelle dell'Orsa, Ti auguro di rimanere solo e Tutte le notti della mia vita mi manca qualcuno. Prima che ci ripensi e decida di non darti nemmeno il dito. La vita si disegna da sola mentre la resti a guardare, dicevano tutti, è come se fosse già tua. Ma io l'ho visto capitare nelle vite degli altri, ma non è mai capitato nella mia. Schiena dritta conto alla rovescia, 7-8 eccomi disteso con le terga in bella mostra. 6-5 all'alba riconosco mio padre mentre mi dice che non gli devo assomigliare. 4-3 di questi miei anni, 2-1 i cuori, e qui devo dire che non c'è più niente da temere. Carezze di altri come i cani passanti infastidiscono i padroni, agli occhi dei chiodi di vetro per lasciare che qualcuno ti guardi attraverso. Porre fede all'ultimo tragitto, macinato a cavallo degli intenti migliori. Sarai sempre così giù che non riuscirai mai a toccare il cielo con un dito. Sarai sempre così giù che non riuscirai mai a toccare il cielo con un dito. Solitudine di pomeriggi, a dire a mia madre da che parte il cuore va girato,